Zefiro, Zefiro, Zefiro, torna, torna, Zefiro, torna, torna, torna, Zefiro, Zefiro, torna, figli di sogni, la gentina, ah, ma grato, figli di sogni. Abbandonare